Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica e ben ritrovati con i Padri Eterni, come ogni settimana qui per parlare di padri, per parlare ai padri, come sta accadendo ormai da un paio di mesi. Io sono a casa mia e Matteo Bussola è a casa sua. Ciao Matteo, eccoci qua. Ciao Fede, buona domenica. Buona domenica anche a te, una settimana, insomma la prima settimana nella fase 2, una settimana particolare, una settimana dove insomma anche i nostri figli sentono un'aria nuova, un'aria piena di speranza e anche di preoccupazione, vero? Uno strano equilibrio. Ma sì, ma poi sai, hanno sentito anche loro che questa settimana è cambiato qualcosa, che si sentono più auto passare, le persone escono più per tragitti più lunghi, anche a piedi. Io stesso sono andato con le mie bambine a fare un giretto giù in paese, sempre con tutte naturalmente le precauzioni e le distanze. E anche se naturalmente gli inviti alla prudenza sono sacrosanti, è inutile nascondersi che la voglia di uscire c'è, soprattutto per i bambini e per gli adolescenti che sono stati chiusi in casa per quasi 3 mesi e dei quali forse va detto è stato calpestato anche qualche diritto in nome della sicurezza, no? Ma anche di questo poi parleremo nella puntata di oggi. Parleremo molto di adolescenti grazie a una ricerca che insomma è stata fatta proprio in queste settimane, dove hanno intervistato più di 9.000 ragazzi tra gli 11 e i 20 anni, e ci sono dati veramente significativi, dati comunque di cui bisogna tener conto anche per le riflessioni successive e per le azioni di noi genitori. E come sempre un sacco di storie. Partiamo parlando di eroi. È stata la settimana anche del nuovo della nuova immagine, del nuovo dono di Banksy, perché quelli che ci fa sono sempre dei doni, no? Questo bambino che gioca con un nuovo supereroe, questo supereroe altro non è che un'infermiera. Ma noi continuiamo a parlare di supereroi e lo facciamo con una canzone. Adesso che il motore del mondo sembra essersi inceppato, tu pensi sia un brutto sogno, scusa, non ti ho ancora svegliato. Come fossimo atterrati su un pianeta deserto e lontano, ma con l'astronave che hai costruito vedrai, amore, che ce la faremo a ritornare al mondo che amiamo, nonostante i suoi difetti, tornare a correre, a giocare, a ridere come i matti. Comincerà la scuola con tutti i tuoi amici, i tuoi piccoli pensieri, questa notte passerà e arriverà domani e passerà. Come passano tutte le cose del mondo lo sai, come passano, volano gli anni e sei cresciuto. Come passano certi dolori nel cuore, anche se spaccano il cuore a metà, e passerà, perché abbiamo milioni di supereroi che per noi ogni giorno combattono e non si arrendono mai, perché proprio come mi hai detto, vinceremo questa battaglia. E passerà. Milioni di supereroi è il titolo di questa canzone, della canzone che stiamo ascoltando, canzone creata e scritta da un padre e un figlio insieme. Il figlio si chiama Federico, ha 9 anni, e il papà che è qua con noi è Paolo Carminati. Ciao Paolo, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, come nasce questa canzone? Come mai che avete scelto di mettere in parole appunto questo racconto? Ma nasce proprio dal dialogo con nostro figlio, che, come succede in tutte queste occasioni, non l'abbiamo ovviamente tenuto all'oscuro di quello che fossero i problemi, e quindi abbiamo raccontato a lui, e poi ovviamente informandoci insieme con il telegiornale, quindi lui ha preso coscienza di tutta la situazione in modo molto preciso. Quindi si chiedeva: ma quando torno a scuola, ma quando posso tornare a basket? E poi ha iniziato a capire meglio la situazione. Si è dimostrato anche lui, come sempre in questi casi, molto più maturo magari di noi adulti. e proprio da alcune sue suggestioni, ecco, da alcuni suoi pensieri, questa cosa di dire ma quelli che sono da soli, papà, come fanno, insomma, quindi tradotto in un linguaggio, diciamo, musicale, è stato così. E anche l'idea dei supereroi, devo dire, al suo totale copyright, perché io avevo pensato a un titolo addirittura diverso, che era Adesso, che è l'inizio di questa canzone, ti sentendolo, lui si è messo con me, voleva arrangiarla, cambiava la disposizione delle frasi, insomma, abbiamo proprio lavorato come si lavora insieme con un musicista o con un artista, e mi ha detto, però i supereroi, papà, e io ho detto, hai proprio ragione. Paolo, quindi questa canzone è nata principalmente da un ascolto, se così si può dire, no? Confermando poi quella teoria che spesso sono proprio i bambini che spiegano le cose a noi. È stata la tua maniera per tentare di offrire una risposta come padre, trovando le parole giuste per questa situazione? Cioè, credi che il linguaggio della canzone possa davvero essere un linguaggio che può aiutarci a spiegare ai nostri figli le questioni più spinose? Allora, devo dire che ci ho pensato facendola, cioè in questo caso, in questa occasione. In questa occasione è stato davvero efficace, cioè terapeutico mi sembra una parola esagerata e sbagliata, però molto efficace, perché lui è entrato nei pensieri delle cose che voleva dire, io riuscivo, insomma, ovviamente magari a confezionarli, a aggiustare una frase nella una logica musicale. E poi ha preso parte a tutto il progetto, abbiamo scelto insieme le immagini, le abbiamo montate, è stato molto bello questo, quindi sì, secondo me è stato un racconto efficace, un modo nuovo, come tante cose nuove che proviamo in questi giorni, di raccontarsi le cose. Paolo, non è facile tirare fuori parole e immagini dai bambini, no? Spesso anche si chiudono, spesso hanno un loro linguaggio, spesso c'è anche la timidezza, anche se dall'altra parte c'è il padre o la madre. Tu come hai fatto, o che consiglio puoi dare a noi padri, appunto, per tirare fuori il loro vissuto, quello che hanno dentro? Ma allora, consigli non me la sento davvero di darne. Poi insieme al padre c'era anche la mamma, quindi, che ovviamente ha sempre un ruolo fondamentale anche in queste situazioni. Io posso dire che è ascoltando, entrare nel loro ritmo, che è una cosa che mi viene e che somiglia un po' con un concetto di musica che oggi stiamo affrontando, no? Cioè entrare nel loro tempo, vogliono parlartene a un certo punto alle 10 di sera, dicendo ma allora sono morte più di due persone oggi, e tu a mezzogiorno che spieghi magari delle cose, non è quella la finestra in cui probabilmente loro sono pronti. E quindi credo sia, ma vale sempre, non insegno niente a nessuno, la regola, entrare nel ritmo, nel tempo dei bambini, ascoltarli, tradurre le cose che dicono in un pensiero, come dire, pari, cioè nel senso che loro comprendono, che tu ti senti di esprimere pienamente, ecco questo. Grazie davvero Paolo, complimenti, un saluto a Federico, ciao e buona domenica. Grazie a voi, buona domenica agli ascoltatori. Noi ci fermiamo nel momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Le nuvole, i sassi, passano i sogni di tutto. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta. Uno straccio di stella messa lì a consolare. Sul sentiero infinito del maestrale. Day by day, on me, shine on me, shine on me. Day by day, save me, shine on me. Ma domani, lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te. E comincia domani. Domani è già qui, domani è già qui. Domani 04/05/2020, un inno alla ripartenza, è la canzone che stiamo ascoltando, una canzone molto particolare, vero Matteo? Sì, è una canzone realizzata, riproposta dai giovani dell'associazione promozione sociale Believe, che è un'associazione della mia città, ed è un riarrangiamento, no, della più famosa Domani, che era stata cantata dagli Artisti Uniti per l'Abruzzo 11 anni fa in occasione del terremoto. E la ragione, Fede, sai, è che poi spesso a proposito del mondo adolescente si intervistano, lo facciamo anche noi, no, gli esperti, gli studiosi competenti, gli psicologi, come giusto che sia, e nel tentativo di elaborare strategie possibili, linee guida proprio per il futuro dei più giovani, ma più raramente si dà voce, no, direttamente a loro, e questa canzone nel nostro piccolo vuole essere un omaggio proprio alle loro voci, una maniera per ricordare che gli adolescenti ci sono, fanno cose belle e stanno cercando per primi di capire come interpretare questi tempi difficili. E a loro hanno dato voce anche Scuola.net in collaborazione con DITE, che è l'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, più di 9.000 ragazze e ragazzi intervistati, con tante crocette da mettere ma anche tante domande aperte, dove davvero ragazze e ragazze hanno potuto lasciare il seno, hanno potuto incidere, no, sulla carta quelli che sono pensieri, desideri e anche paure. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma volevamo tornare sull'argomento. Infatti con noi c'è proprio Giuseppe Lavegna, psicoterapeuta e presidente dell'associazione DITE. Ciao Giuseppe, ben ritrovato qui ai Padri Eterni. Ciao, ciao a tutti. I numeri, insomma, sono sempre una fotografia anche un po' sterile, un po' statica, però come tu anche ci insegni, danno delle indicazioni, danno comunque delle vie, e sono un'istantanea su cui è necessario riflettere, e voi professionisti lo fate. Numeri che si possono leggere col bicchiere mezzo pieno o col bicchiere mezzo vuoto, no? Perché anche i numeri poi sono interpretabili. Non ti chiedo una polaroide di questa generazione degli adolescenti davanti al coronavirus, perché sarebbe troppo banalizzante, però dici quali sono gli scatti più interessanti di questa ricerca. La contraddizione proprio della tecnologia, quello che è emerso dalla nostra ricerca è proprio questo. Tanti ragazzi dicono di essere costantemente connessi, più del 90% dice che non riesce mai a staccare dai propri amici, quindi è perennemente attivo, passa più di 10 ore al giorno davanti allo smartphone, eppure il 74% ci dice che si sentono profondamente soli. Ecco, la tecnologia ad oggi ancora, probabilmente non siamo pronti, probabilmente la tecnologia non avrà mai questa potenza qui, non ci riempie il senso di vuoto che abbiamo, questo senso di angoscia. Questi ragazzi sono in casa, sono davanti a uno schermo, hanno tanti amici collegati, magari anche 5.000, ma poi si sentono profondamente soli, profondamente tristi e anche profondamente angosciati. Giuseppe, credo che sia importante anche leggere questi numeri, e non solo i numeri, tu stai ricevendo decine se non centinaia di telefonate in questo periodo, mi dicevi anche, ci hai detto anche appunto domenica scorsa, di tanti genitori spaventati per gli attacchi di panico improvvisi che hanno i figli, fenomeni mai avuti prima ma che adesso invece sono sempre più numerosi. E ci siamo avviati, siamo già nella fase 2, siamo nella riapertura, insomma dobbiamo accompagnare forse da genitori, da padri, i nostri figli in questa nuova vita, e se non l'abbiamo fatto prima è il momento davvero di prenderli per mano e aiutarli anche a uscire, no? Perché è difficile comunque uscire, sembra un paradosso, ma è difficile tornare ad aprire quella porta, andare fuori, ci sono mille paure, mille timori. Ecco, da padri, cosa dobbiamo fare secondo te in questo momento? I dati ci dicono, parlavi prima delle domande aperte, noi ragazzi ci hanno detto che hanno voglia, avrebbero avuto tanta voglia di fare qualcosa con i genitori, con i padri, anche cose manuali. I padri poi dovrebbero, tendenzialmente tendono a volte a non essere presenti nell'attività manuali, no? Magari costruire un gioco, fare un'attività. Proprio oggi ho ascoltato 2 o 3 chiamate al numero verde che mi raccontavano, una ragazza, l'ultima che ho in mente, che lei non riesce a vedersi e chiedeva a sua mamma e suo padre come ritornare alla vita reale, e lei ha avuto gli attacchi di panico che l'hanno bloccata, e i genitori pensano che tutta colpa dello schermo, della tecnologia. In realtà probabilmente dobbiamo ritornare a prenderci cura delle loro paure, perché anche loro sono spaventati da questa malattia. Giuseppe, ma infatti guarda, cioè, i ragazzi in questo momento di isolamento fanno più fatica a sognare come sarà il loro domani, e lo dico perché abbiamo aperto proprio con una canzone che si chiamava così. Hanno anche loro questa paura di uscire. Ti dico, questa settimana io ho sentito parlare di questa nuova sindrome che pare si chiami sindrome della capanna o sindrome del prigioniero, che tutto sommato, racchiusi nelle quattro mura di casa con la propria connessione, al riparo dallo stress, della quotidianità, del confronto là fuori, insomma, c'è anche questa dimensione, anche una sua piacevolezza, una dimensione rassicurante. Sui ragazzi, sugli adolescenti, si riflette questa cosa? Io mi auguro di sbagliarmi, ma il vero problema sarà l'isolamento sociale. Chi si abitua a rimanere, no, tanto tempo in casa, avere come dire, sentirsi protetto dentro l'ambiente familiare, anche se poi magari mi sento solo, sentirmi solo non è una motivazione sufficiente per farmi uscire. Quindi il vero rischio sarà di avere una popolazione di giovani. Ragazzi, pensate anche ai bambini, che i bambini di 10, 9, 11 anni, come quelli che abbiamo intervistato, sono veramente in profonda difficoltà. Ripartire sarà tanto complesso e tanto difficile, e quindi noi genitori dobbiamo riprendere per mano e iniziare a progettare con loro, perché loro devono vederlo. Non riescono a vederlo perché sennò veramente andremo incontro a una popolazione di ragazzi isolati. Poi Giuseppe, ci sono abitudini che sono cambiate, no? In tanti vanno a letto più tardi, oltre a svegliarsi più tardi la mattina, disturbo del sonno, tanti cambiamenti anche nel regime alimentare, no? Sia nei momenti in cui si mangia e anche il cosa si mangia. Sono saltate tutte le altre regole, per esempio anche nelle poche, non tantissime famiglie in cui l'utilizzo delle nuove tecnologie è comunque regolamentato, in questi due mesi, no? Si è stati molto più elastici. Secondo te c'è necessità di rimettere delle regole? Cioè, ce lo chiedono di avere comunque dell'ordine nelle loro giornate? Assolutamente, siamo obbligati a rimettere le regole. La routine è fondamentale, crea tranquillità. Avere delle regole ti permette di funzionare meglio sempre, sia sei un bambino o sei un adulto. Quindi è fondamentale riportare i ragazzi alle regole, ma soprattutto anche agli adulti. Rispetto all'alimentazione, che c'è una grande variazione, per esempio i ragazzi tendono a mangiare moltissimo davanti allo schermo, okay? Quindi prestare meno attenzione a quello che si mangia, quindi ascoltare meno il proprio corpo, e soprattutto stanno girando tantissime challenge sul corpo in questo momento, sull'ingrassare tanto, sul dimagrire tanto. Quindi dobbiamo stare attenti, no? C'è una challenge che gira proprio in questi giorni, molto pericolosa, su Telegram, fatta di ragazzini molto piccoli, dove il ragazzo deve, o la ragazza, devono esporre la propria vita e far vedere che riescono a fare due giri con gli auricolari di un cellulare intorno alla vita. Quindi una vita molto molto piccola, ok? Quindi da non imitare, però il tema dell'alimentazione, no? Di vedersi in questo momento, c'è chi sta facendo molto più sport, ci sono tanti ragazzini, anche questo nei questionari è uscito fuori. Io per passare il tempo faccio tre volte le attività sportive che facevo prima, faccio così tanta attività che mi distruggo, alcuni mi hanno scritto, addirittura mi massacro. Quindi vuol dire che anche il rischio, no, poi di un disturbo in qualche modo alimentare, un disturbo dell'identità corporea, può venire fuori se noi non siamo attenti. Ringraziamo Giuseppe Lavenia, psicologo, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche. Tutte le informazioni al sito www.dipendenze.com. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao a tutti voi, grazie. Noi adesso ci fermiamo, il meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. I don't know. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, eccoci qua, i Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito, ve lo ricordo, da lì potrete poi scaricare il podcast per riascoltare la puntata, padrieterni@radio24.it, se volete contattarci, se volete scriverci, se volete mandarci idee, suggerimenti, anche critiche, tutto ciò lo potete fare anche attraverso la nostra pagina in Facebook. E adesso toccheremo un argomento bello, lo faremo a modo nostro, lo faremo con un paio di ospiti, che è quello comunque del diventare padri anche in questi mesi, no? Dove comunque la vita e la morte, come sempre in questa giostra che la vita poi si intrecciano, però appunto un'esperienza così importante, così bella, così totalizzante come quella di diventare padre, si scontra con un mondo che si è fermato, un mondo sospeso, un mondo dove insomma le preoccupazioni anche non mancano. E abbiamo con noi un neopapà, ovvero è diventato papà per la seconda volta, però questa seconda volta appunto è accaduta durante l'epidemia. Diamo il benvenuto a un attore amatissimo, uno dei miei preferiti, e soprattutto perché ha interpretato quello che è uno dei miei film più amati, che è 10 inverni. Diamo il benvenuto a Michele Riondino. Ciao Michele, buona domenica. Ciao, buona domenica, buongiorno a tutti. Lo so che con 10 inverni ti ho riportato un po' indietro negli anni, lo so, lo ammetto. Però è un film che abbiamo amato molti, ecco, diciamo, anche chi l'ha fatto, anche noi che l'abbiamo fatto, è stata una bellissima esperienza, un'esperienza particolarissima. Eh sì, infatti. Come è stata un'esperienza particolare quella di diventare padre, credo, in queste settimane, vero Michele? Guarda, già diventare papà è un'esperienza, una bella esperienza, che fa un bel curriculum. Farlo in questo periodo è stato speciale, però è anche stato, diciamo, deficitario sotto alcuni aspetti, ecco, se consideri per esempio che la prima cosa che senti di quando nasce tuo figlio è l'odore, ecco, le mascherine è stata la prima differenza che ho notato che ha notato più la madre, a dire il vero, ma con la differenza della primogenita, ecco. L'odore è la prima cosa che senti di tuo figlio, e con le mascherine era un po' difficile. Michele, senti, ma questa seconda figlia te la stai vivendo con una consapevolezza differente, con una pienezza maggiore, forse anche con più tranquillità, pur nel paradosso che è venuta al mondo, no? In un momento invece molto, molto difficile, o è sempre uguale la paternità? È sempre questa cosa, questa forza travolgente che ti lascia? No, è completamente diverso, ma non credo solo per l'emergenza Covid. È un'esperienza diversa. Perché per me è sempre stato impossibile considerare di provare l'amore che provo per mia figlia per un'altra persona, anche per una seconda figlia, perché fondamentalmente è una terza persona che entra, una sconosciuta, e quindi considerare l'amore che provo per la prima figlia che possa essere ripetibile anche per la seconda era già, non lo so, concettualmente qualcosa di difficile. In questo periodo poi è particolare anche la scansione del tempo, cioè il tempo passa e ti concentri su questa nuova arrivata che si sta ambientando, però guardi anche con un occhio particolare la più grande, che è costretta a vivere la successione del tempo e delle ore che passano a stretto contatto con una persona che anche per lei è una sconosciuta, è la sorella, è nostra figlia, e la stiamo accogliendo nel nostro nucleo che si è allargato. Però è particolare, perché se consideri che i bimbi, Frida, la mia prima figlia, ha 6 anni, e i bambini vivono fuori casa, vivono a scuola, vivono gli amici, si vivono i rapporti con la gente, con i loro pari. E per esempio Frida, la mia prima figlia, è una bambina che ama condividere le cose belle e le cose brutte. Ecco, a lei per esempio manca condividere questa esperienza della sorellina con qualcuno, però è costretta a vivere le ore, tutte le ore del giorno, a stretto contatto con una persona, quindi con una persona nuova, e quindi c'è anche questo aspetto, no? Che nota com'è difficile anche accudire 24 ore su 24 un esserino così piccolo. Michele, ma la costringe anche H24 a stretto contatto con te, no? C'è cosa forse un po' insolita, almeno credo, per un professionista e per un padre con la valigia sempre in mano come un attore. Cioè, hai avuto proprio la sensazione che questo periodo difficile ti abbia regalato anche un tempo nuovo in questo senso? No, questo è un regalo, sì, questa è un'opportunità, a dire il vero, perché anche l'assetto e gli equilibri familiari si consolidano e trovano una nuova forma. Anche la condivisione appunto del periodo di emergenza, della quarantena, anche semplicemente riconoscere un momento, diciamo, un po' negativo, ecco, di qualcuno dei tre o dei quattro adesso. Aiuta qualcuno, aiuta la mia compagna, ma aiuta anche mia figlia a saper prendere meglio. Ecco, noi ormai sono 50 giorni che siamo in quarantena e siamo chiusi in casa, e riconosciamo l'uno nell'altro anche i momenti negativi, sia da parte mia, da parte della mia compagna, da parte di Frida, di mia figlia, insomma, e riusciamo a farci forza, ecco. E poi è particolare però pensare che per una bambina di 6 anni vederla costretta a non poter uscire e cercare di spiegarle le cose per quello che sono, certo edulcorando un po' l'argomento, però fondamentalmente dicendole tutta la verità. È un periodo molto particolare, aiuta, ecco, questo periodo particolare di emergenza aiuta secondo me a riformulare la comunicazione interna a una famiglia, cioè a dirsi le cose come stanno, però a trovare le parole giuste, a pensare e a pesare le parole. È vero, probabilmente anche a togliersi delle maschere o anche a mettersi in gioco, a sperimentarsi, no? Almeno confrontandoci anche con tanti altri padri ci siamo resi conto che in queste settimane abbiamo fatto almeno una cosa che non avevamo mai fatto da padri, cioè comunque abbiamo sperimentato cose nuove, che vuol dire anche relazioni nuove con i nostri figli, che pensavamo di conoscerli tutto, in verità ci siamo meravigliati perché c'erano cose che abbiamo scoperto o riscoperto in questi 2 mesi. Certo, abbiamo anche scoperto qualcosa della vita dei nostri figli, anche diventando esperti in alcuni giochi che magari prima facevamo con più superficialità. Adesso siamo esperti, siamo delle schegge, non si sfugge più niente, ecco. Michele, grazie davvero per aver condiviso con noi questa vostra bella esperienza. Un saluto a Irma, un saluto a Frida e un saluto ovviamente anche a Eva, la madre, perché insomma, come hai ben spiegato tu, è stata l'avventura di un'intera famiglia. Ciao Michele, grazie, grazie. Buona domenica. Grazie a voi. Ciao Michele. Buona domenica. How could I know? Nobody told me your touch is cold as stone. You get along, throwing fire, burning home. Tonight is long, when you're gonna wanna. Oh, hard cut from the start. I want to pray, now the hunt is in your eyes. No love in your blood, in your heart. Daddy took it. Continuiamo a parlare del diventare padri in questo periodo, l'avevamo anticipato e lo facciamo adesso con un bel ospite. Perché? Perché settimana scorsa si è tenuta una videoconferenza promossa dalla ASL locale di Imperia, intitolata Travaglio, parto e papà all'interno di una pagina Facebook che si chiama Genitori in carica del consultorio promozione famiglia. Videoconferenza che è stata tenuta da un'ostetrica che si chiama Marina Santora. Qui diamo il benvenuto. Ciao Marina, buona domenica. Grazie, altrettanto a voi, buona domenica. Allora, è ovviamente la grande parentesi delle nostre esistenze legate a Skype, a Zoom e a tutte le altre videoconferenze, quindi anche voi vi siete adeguate al mezzo, però appunto una videoconferenza sul diventare padri in generale e in particolare in questo periodo. Da dove è nata l'idea intanto? Devo fare una piccola precisazione. L'idea è nata essenzialmente dal Centro Promozione Famiglia, che ha chiesto una collaborazione all'azienda sanitaria nella mia persona, e da questo è nata questa videoconferenza. In realtà il punto è che, come tutti sappiamo, stiamo vivendo un momento critico e generalmente si fanno dei corsi per le mamme e i futuri papà, e questi corsi purtroppo, grazie a questa pandemia, si sono dovuti interrompere. Quindi molte persone sono rimaste prive, diciamo, di quello che poteva essere un supporto di tipo pratico, psicologico, che è rappresentato dai corsi. E il Centro Promozione Famiglia, con questa iniziativa di Genitori in Crescita, ha pensato di colmare un pochino questa lacuna dovuta alla necessaria distanza. E tra i temi che abbiamo proposto c'era anche quello, appunto, di diventare padri, perché i corsi generalmente sono rivolti alle mamme, ci si concentra molto sulle mamme, i papà restano un pochino in disparte. Marina, ma ecco, infatti, per quella che è la tua esperienza di ostetrica, i papà sono più o meno spaventati rispetto al solito? Cioè sono sempre i soliti adorabili impediti in sala parto, o l'ansia è maggiore del solito? Di papà ne ho incontrati tanti, e devo dire che è forse proprio questo essere un pochino a latere che è insolito per loro, mentre le mamme appunto trovano diversi interlocutori, a partire dal medico di base piuttosto che il ginecologo, le maestranze in ospedale quando vanno a fare i controlli. Il papà sembra sempre un po' un intruso, però una gravidanza la vive anche lui, insomma, è il compagno di questa donna che diventerà madre, il papà del futuro bambino. E è sempre stato visto un po', appunto, come un elemento estraneo, e questo probabilmente viene anche recepito. Poi chiaramente ci sono i papà che superano questo impasse con il loro carattere, con la loro esuberanza. Ci sono quelli che ci ridono, ci scherzano sopra, ci sono quelli invece che sono un pochino più ansiosi, preoccupati, e che avrebbero forse bisogno proprio di trovare uno spazio che ancora non c'è molto, insomma, viene dedicato loro veramente poco spazio, a mio parere. Quindi avrebbero bisogno proprio, Marina, di poter parlare. Certo. Un'ultima domanda. Ma in queste settimane avete visto anche magari padri, in questo caso anche madri, che magari sono venuti a una visita in meno e non si sono presentati all'ospedale all'inizio delle contrazioni per paura, appunto, di accedere, per esempio, in reparto? Cioè, vuol dire qualcosa per magari rassicurare le persone in questa direzione? Allora, dunque, sicuramente il periodo è un periodo veramente eccezionale, purtroppo in senso negativo. E quindi le persone sono spaventate, sono preoccupate, temono molto l'ingresso in ospedale. Noi qui abbiamo l'ospedale di Imperia, che si è accollato anche la maternità di Sanremo, e quindi le persone sanno che andranno in ospedale, e c'è un ospedale loro dedicato, insomma, che non è un ospedale Covid. Ovviamente ci sono delle pratiche che sono quelle che sono dettate dal centro regionale e che vanno fatte, e quindi tutte le donne che vanno a fare le visite, le ultime visite in ospedale, vengono poi testate, viene fatto il tampone, insomma, vengono rassicurate dalle colleghe bravissime in ospedale. E i papà purtroppo in questo periodo non hanno accesso alla sala travaglio, ma solo alla sala parto, per le donne chiaramente negative, sempre muniti dei dispositivi di sicurezza. Ecco, certo. È qualcosa che sicuramente ha cambiato e sta cambiando quello che era una conquista, cioè il papà a fianco alla propria compagna. Ecco, magari forse potendola vedere un po' in un lato positivo potrebbe, come dire, invogliare i papà e le mamme a non partire come fanno di solito, presi dall'ansia alle prime contrazioni, ma insomma aspettare un attimo e godersi magari qualche ora in più a casa, nell'intimità della propria casa, aspettando che sia veramente il momento di andare in ospedale per poi come certo. dire, starci il meno possibile, sì. Ecco, ma certo. La nascita è così da sempre e quindi che siano tereni. Grazie davvero a Marina Santoro, ostetrica dell'ASL locale di Imperia, protagonista di questa videoconferenza intitolata Travaglio, parto e papà. Ciao e buona domenica. Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Alfonsina, le tette sgonfie. Alfonsina si faceva fino alla mattina. Alfonsina ha le gomme piene. Alfonsina, una ragazza, questa storia non conviene. Alfonsina ha le gomme piene. Alfonsina, che ci avevi nella testa, che ci avevi nelle vene. Alfonsina ha le tette sgonfie. Alfonsina si faceva fino alla mattina. Un giorno però, molti anni dopo, col cielo grigio e freddo, invece della bici tentò di accendere il suo motore. Dannata, disperava di farlo girare con la leva a pedale. Lui ostinato rifiutava. E con Alfonsina e la bici che stiamo ascoltando, ci avviamo verso la chiusura di questa puntata, un pezzo bellissimo di Ted Dubois, pezzo a cui sono molto affezionato. Perché? Perché a parte che la canzone è molto bella, la storia di Alfonsina è fantastica, la prima donna ciclista italiana, ma soprattutto perché il video è interpretato da una fantastica Margherita Hacke, quindi vi consiglio davvero di andare a vedere il video, stiamo mettendo il link ora nella nostra pagina Facebook. Perché? Perché vi accogliamo con questo pezzo? Perché il cantante, nonché pediatra, nonché scrittore, è il nostro prossimo ospite, perché abbiamo preso spunto da un suo libro, un libro uscito qualche mese fa, si intitola Pise e Pata, dialogo tra i bambini sulle cose del mondo. È qua con noi, diamo il benvenuto ad Andrea Satta. Ciao Andrea. Buona domenica a tutti. Insomma, guarda, la prima domanda, chissà la nostra Margherita, che abbiamo avuto entrambi la fortuna di conoscere molto bene, chissà come avrebbe commentato questo periodo che stiamo vivendo, vero? Ma lei era la più bambina di tutti quando, con Agostino Ferrente, che è il regista del videoclip di cui parlavi prima, l'abbiamo portata a Roma. Lei ci ha detto: guarda Andrea, vengo, Agostino, vengo, ma mi dovete garantire che potrò suonare la tromba e saldare con un saldatore dentro la ciclofficina. Io ho detto: ok, fantastico, se questo è l'accordo non avrai problemi. E così è stato. Infatti, se vi dico, si vede che lei salda, fa le scintille con il saldatore e si diverte con la tromba. E i bambini hanno la grande chance di sapersi divertire, di trovare nei dettagli le passioni, cose che gli adulti purtroppo perdono, no? Noi tendiamo alla funzionalità degli oggetti, ci interessiamo soltanto di raggiungere rapidamente l'obiettivo. Invece i bambini analizzano gli oggetti tanto da li analizzano così tanto che alla fine perdono il senso della funzionalità e li trasformano in un'altra cosa, fanno volare un temperino, fanno palissate con i colori, costruiscono case con le foglie, fanno cose che un adulto non si spertica per niente a fare, al massimo gli danno fastidio le foglie che cadono a un adulto. Certo. Quindi loro hanno una cosa in più rispetto a noi. Con il tuo dialogo tra i bambini sulle cose del mondo sei proprio entrato nelle loro teste, nei loro cuori, no? Nei loro pensieri, nella loro creatività, insomma, una lettura davvero davvero molto bella. Ci puoi aiutare, soprattutto in questo momento così complicato, in quanto padri, a interpretare, a leggere i nostri cuccioli? Guarda, in questo periodo, in questo momento, dobbiamo essere forti. Dobbiamo capire che è capitata una faccenda epocale che passerà, ma non passerà in due pomeriggi. Per cui non è una vasca di una piscina che ti tuffi e dopo un po' di mesi sei dall'altra parte. Dobbiamo un po' viverlo questo mare, un po' trovarci un sale, un po' navigarlo e un po' cogliere anche le occasioni che ci può offrire. E dentro questo atteggiamento, dentro questa riscrittura del tempo, sta un po' la soluzione per viverlo bene, perché altrimenti c'è il rischio che noi viviamo nell'ansia continua che tutto torni come prima, e io un po' mi auguro che tutto non torni come prima, tutto torni un po' meglio di prima, perché le esperienze tragiche, questa sicuramente lo è, ci offrono delle chance, ci parlano, ed è un'occasione veramente da non perdere. Per esempio la bicicletta con cui abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata è una grandissima occasione. Adesso possiamo nuovamente uscire di casa e portare i bambini a fare delle esperienze in bicicletta, anche se uno abita in città, dentro un parco, a fare un piccolo picnic papà e bambino insieme, a portarsi una piccola merenda, a immaginarsi una capanna da qualche parte in un angolo del parco. È un regalo bellissimo, è nel dettaglio che possiamo trovare il tempo nostro della felicità. Andrea, ma infatti questa sembra un po' essere anche la morale, no, che si trova nel tuo libro, peraltro impreziosito, diciamolo, dalle meravigliose illustrazioni di Giacomo Agnello Modica, che veramente sono una cosa eccezionale. La morale sembra essere, no, che il diritto dei bambini è quello di conoscere il mondo e di imparare dal mondo agendolo, no? E allora ti chiedo, da pediatra e da scrittore soprattutto, cosa ti sentiresti di consigliare ai padri di oggi, che magari sono un po' più preoccupati del solito? Cioè, come si trova in questo periodo il giusto equilibrio fra il legittimo desiderio di protezione per i nostri figli e il loro diritto all'indipendenza e all'autonomia? Questa è la sfida da vincere da sempre, no? Perché chiaramente i bambini devono acquisire autonomia, devono crearsi il loro spazio e devono sapere affrontare le cose. Però noi possiamo orientare certe passioni, possiamo tirarli via da tutto il consumismo che gli viene continuamente imposto più che proposto, e fargli vivere delle esperienze che magari sono molto interessanti e dentro contengono delle vite, dei mondi, dei racconti. Appunto, vi dicevo prima, uscire, intanto uscire, ora che si può, intanto uscire e andare insieme, pedalare, respirare un tempo, andare a piedi in un posto, guardare esattamente cosa c'è intorno, o riraccontarselo, abituare i bambini a raccontare quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo vissuto, quello che ci ricordiamo. È un patrimonio straordinario che tra l'altro i bambini si porteranno nella loro vita, e più in là nel tempo avranno tantissima felicità di poter rivivere nella memoria. Questo è sicuramente la dedica del tempo, credo che sia la cosa a costo zero che possiamo veramente imparare a fare. Non è un consiglio, non è un'idea qualunque, è la soluzione di questo tempo qua. Loro hanno sicuramente bisogno degli altri, questa è la pagina più difficile, perché i bambini non hanno soltanto bisogno dei genitori, hanno anche bisogno dei loro amici, e questo è un momento difficile, perché noi con questo concetto, perché per carità dal punto di vista scientifico mi sembra indiscutibile, della distanza sociale, che è una frase un po' faticosa da ammettere, forse sarebbe meglio dire dalla distanza anatomica, ecco, ma dalla distanza sociale fa un po' tristezza, pure quella anatomica fa tristezza, ma quella sociale comprende pure quella anatomica, quindi è pure peggio. Però ecco, la distanza ci impone di non mandare i bambini, almeno per qualche altra settimana, speriamo che non sia per tantissimo tempo, a giocare con gli altri, che per loro è una privazione immensa. Allora noi dobbiamo sapere essere anche compagni di giochi, e questo dobbiamo saperlo fare, e dobbiamo fare delle cose che non sono la frustrazione di una cosa più bella, ma sono una cosa bella di suo, perché quella cosa si fa così, ripeto, andare in bicicletta si può fare, perché ognuno lo fa nel suo tempo, nel suo spazio, nella sua solitudine, stando con gli altri, ma nel proprio privato, in qualche modo, rapidamente attraverso gli spazi che cambiano, e vivi più esperienze nello stesso arco di tempo. Quando un bambino è un po' più grande, per esempio, si può guardare, sembra una banalità, ma un film ogni sera lo possiamo scegliere con nostra figlia, che magari ha 9 anni, lo possiamo scegliere un film insieme e ci appassioniamo, e quello diventa un appuntamento nostro privato meraviglioso. Andrea, grazie davvero per queste suggestioni. Andrea Satta, ricordiamo, Pisa e Pata, dialogo tra i bambini sulle cose del mondo. Ma ci salutiamo con un altro tuo pezzo che si intitola Cosa ti ricordi. Posso salutare un amico che non c'è più? Certo. Che è l'editore di Pisa e Pata, Massimo De Nardo, che purtroppo ci ha lasciato il giorno di Pasqua nella sua Rosella V. È stato un grandissimo uomo, un grandissimo personaggio, un grande editore di grande sensibilità. Gli abbracci di tutti i Pisa e Pata del mondo. Grazie davvero, Andrea. Cosa ti ricordi di tuo padre? Cosa ti ricordi di tuo padre? Cosa ti ricorderai? Cerca fra le vecchie foto, quelle dove sei con lui. Io mi ricordo un uomo che non sorrideva quasi mai. 100 storie davanti al fuoco, ma parlava molto poco. Dei fatti suoi, questo era mio padre. Mi ricordo la sua mano sui marciapiedi della mia città, all'altezza dei miei occhi, all'altezza dei miei occhi. A quell'età questo era mio padre. Si andava spesso alla stazione a vedere i treni andare via, fischiettando una canzone. La ragazza del Pireo era stata sua. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie come sempre a Danilo Di Trani, che con noi ha scritto la puntata. Un grazie per il supporto tecnico alle ragazze e ai ragazzi di Radio Immaginaria. Un grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it, il nostro sito, da lì potrete riascoltare e scaricare il podcast. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana a te, ma consentimi, insomma, ce lo siamo tenuti per la fine. Auguri a tutte le mamme, perché oggi è la loro festa, e perché anche se questa è una trasmissione dedicata ai papà, noi non dimentichiamo mai naturalmente le nostre mogli, le nostre compagne, le persone che con noi condividono la vita e l'educazione dei figli, e che spesso si fanno carico, come i più di noi, della famiglia e di tutto quanto, con la speranza anche di poter apprendere un giorno la straordinaria capacità di multitasking che hanno, insomma, ecco, e di essere così padri un po' meno imperfetti. Un abbraccio quindi da noi, padri eterni. L'appuntamento, come sempre, a domenica prossima alle 11. Ciao! Ciao!